Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro primo, versi 569-780. Libro secondo, versi 1-110. In Tessaglia c'è un bosco che chiamano Tempe, accerchiato da forre scoscese. È per là che il Peneo, dalle pendici del Pindo, si srotola giù nella spuma della corrente, per sobbalzare in cascate e alzare nebbie che sbandano in vapori leggeri, spruzzando le cime degli alberi e assorni. Questa la casa, la sede, questo il santro scavato dentro la roccia, di là detta legge alle acque e alle ninfe che vivono in acqua. E là per primi convengono i fiumi della regione, in dubbio se congratularsi col padre o se consolarlo. Lo sperchio, bordato di pioppi, l'enipeo molto irrequieto, il vecchio apidano, il più che mite anfriso, e le ante e ancora altri fiumi che, spinti dall'impeto delle correnti, giare. Solo l'Inaco manca, acque di lacrime, disperato per io, figlia perduta. Non sa se è ancora viva o se è scesa fra le ombre, non trovandola più da nessuna parte, pensa che non ci sia più e teme il peggio in cuor suo. Mentre tornava dal fiume paterno, la aveva adocchiata Giove. «Fanciulla degna di Giove», le aveva detto, «che felice farai il non so chi destinato al tuo letto, perché non vieni all'ombra», e le stava indicando l'ombra d'un bosco, «finché all'apice del tragitto il sole scotta così belve, va tranquilla per la foresta, che un Dio ti protegge e non un Dio da due soldi». Quanto è vero che ho in mano lo scettro dei cieli, quanto è vero che punto e scarico i fulmini. Non mi scappare, lei scappa lo stesso e già s'è lasciata dietro l'Erna con i suoi pascoli e i bei frutteti dell'Irceo, quando nascosto gran tratto di terra sotto le ruba la virginità. Proprio in quel mentre a Giunone cade lo sguardo sul centro del giorno, volubili nebbie abbian fatto notte, non provocate, osserva, né dai vapori d'un fiume e nemmeno dall'umido del terreno. Si guarda in giro per vedere dov'è suo marito, tante volte avendolo preso, con tanto di mani nel sacco. In cielo no, non lo trova. O ch'io mi sbaglio o che lui me la sta facendo, pensa. Si cala a darsi di torno. Ma lui, avendo previsto quell'arrivo, aveva mutato la figlia di Inaco in una giovane pure così. Per quanto le costi, la dea Saturnia elogia la grazia della vacca e domanda di dove sia, di chi, di che armento, facendo finta di niente. Purché lei smetta di fare domande, Giove si inventa che è spuntata dal suolo e lei gliela chiede in dono. Che fare? Regalare un amante è troppo crudo. Il buon nome pretende una cosa, l'amore pretende l'opposto e l'amore sembrerebbe avere la me a chi ti è in moglie e sorella, tu rischi si capisca che vacca non è. In possesso della rivale, non per questo la dea si mette il cuore in pace, anzi teme che Giove gliela trafughi, finché non la dà in custodia ad Argo, figlio di Arestore. Argo 100 occhi aveva tutto intorno alla testa, si riposavano a turno, stavano tutti svegli a montare di guardia. In qualsiasi postura mantiene il controllo di giorno lascia che pascoli. Quando il sole sprofonda dentro la terra, la rinchiude e le mette al collo una umiliante catena. Si nutre di fronde e d'erba amara, per letto ha il terreno e non è detto sia sempre coperto di foglie, non beve che l'acqua di fiumiciattoli melmosi. povera bestia. Le viene da tender le braccia ad Argo. Nel tentativo di lamentarsi le escon di bocca muggiti e a quei suoni trasale inorridita, si è spinta in riva all'Inaco, dove un tempo giocava, ed ha visto nell'acqua la novità di quelle corna, è fuggita terrorizzata di sé. Le naiadi non lo sanno, nemmeno l'Inaco sa chi sia quella che adesso trotta col padre e con le sorelle e lascia che la carezzino e si dicano «com'è bella!». Strappa un ciuffo d'erba il vecchio paterna, ne copre la palma di baci, non sa trattenere le lacrime e se solo potesse parlare chiede, invece di dire parole, traccia lettere nella polvere con lo zoccolo e svela il triste segreto del corpo cambiato. «Povero me!» grida Inaco padre e si aggrappa alle corna, si appende al candido collo della giovenca che piange. «Povero me!» ripete. «Sei tu la figlia che andavo cercando per tutta la terra. Se non ti trovavo, che ti dico, non reagisci se non cacciando sospiri dal fondo del petto. Io ti parlo e tu mi rispondi a muggi, sapendo ti preparavo la festa di nozze, contando prima su un genero, poi sui nipoti. Troverai marito tra i buoi e avrai per figlio un bue. Ne posso mettere fine a tanto dolore ammazzandomi. Purtroppo essere un dio mi preclude la porta dei morti e mi protrarrà questo lutto per tutta l'eternità». Così si lagna e Argo, costellato d'occhi, lo caccia, strappa al e lui stesso si apposta in cima a un monte abbastanza lontano di dove sorveglia in tutte le direzioni che la ninfa si accolli tanta pena, convoca il figlio datogli da una splendida naiade e gli commissiona l'assassinio di Argo. Si prende giusto il tempo di applicare le alette ai piedi, impugnare la verga sonnifera, cacciarsi l'elmetto in testa che, bardato così, il figlio di Giove si fionda giù dalla rocca del cielo sulla terra, lì mette da parte. Con quella e con qualche capretta rubata passando, si finge un pastore che, persa la strada, si è fatto un flauto e lo suona. Sedotto da quella delizia di musica, l'incaricato di Giunone, «perché non ti siedi con me, chiunque tu sia», gli fa. «Per il gregge un pascolo più ghiotto di questo non c'è ombra, come ben vedi, più adatta per un pastore». Si siede il nipote di Atlante e, chiacchierando a dirotto, inganna il tempo che passa o tenta con lo strumento a canne di... Ma quello si batte per vincere le dolcezze del sonno, ce n'è ancora di svegli. Anzi chiede, essendo quello strumento inventato da poco, la storia di quella invenzione. Allora il dio, sulle gelide montagne d'Arcadia, racconta, fra le amadriadi di Nonacre, c'era una rinomatissima naiade che si chiamava Siringa. Più d'una volta s'era sottratta ai satiri che le correvano dietro e a quanti dei frequentava. Era adepta di Diana e per gusti e perché tutto che la potevi scambiare con lei non avesse avuto un arco di corno al posto del famoso arco d'oro. Ma la scambiavano lo stesso. Rientrava dal Monte Liceo la volta che Pan, la testa coronata ad aghi di pino, le fece questo discorso. Non restava che riferirlo. E come la ninfa, senza starlo a sentire, scappasse alla cieca fino a raggiungere le acque tranquille del biondo Ladone e, vedendo la fuga sbarrata dal fiume, lì, come pregasse le sue sorelle d'acqua, preso Siringa, stringesse fra le braccia, invece d'un corpo di ninfa, un ciuffo di canne e sospirasse, e il suo fiato, passando fra canna e canna, facesse un suono leggero che sembrava uno che piange. come vinto dalla dolcezza di quella musica nuova, saranno per sempre così, dicesse, i nostri colloqui, e una volta saldate con cera, rivasse il nome della ragazza. Mentre questo è sul punto di dire il dio del Cillene, si accorge che si tappa di colpo la bocca e, passando la magica verga sulle palpebre spente, rende quel sonno più duro. Poi, con la spada falcata, mozza la testa che ciondola, colpendola all'attacco del collo, e lascia che rotoli per il dirupo scosceso, macchiandolo tutto di sangue. Argo, sei morto. Il lume che accendeva tutti i tuoi lumi si unica notte. Li raccoglie la dea Saturnia per tempestarne le piume della coda del suo. E senza dar tempo al tempo, bruciando di collera, suscita davanti agli occhi e nell'anima della rivale d'Argolide l'orrida Erinni, che in cuore il pungiglione le pianta della demenza e la esilia atterrita per tutta la terra. Limite estremo di tanto sbando, restavi tu, Nilo. Guadagnatene appena le sponde, ecco che pare gli occhi alle stelle, non potendo far altro, e pare supplichi Giove con singhiozzi, con lacrime, dopo la fine di tanto tormento. E quello, gettando le braccia al collo della consorte, la supplica di interrompere le torture. Non preoccuparti, le dice, per il futuro. Un motivo di gelosia come questo puoi scordartelo, e chiama in causa gli stagni di Stige. Tranquillizzata la dea, Io riassume l'aspetto di prima. Torna scemano, le orbite degli occhi le si riducono, rimpicciolisce la bocca, le tornano spalle empie. Della vacca in lei non rimane che lo stupendo candore. Si alza in piedi la ninfa e gliene bastano due, ma di parlare ha paura non le scappasse il muggito della mucca e timidamente ritenta parole perdute. Adesso è una dea, venerata da folle che vestono lino, ed Epafo, alla buon'ora, le accreditata gli consacrano templi insieme a sua madre. Pari a lui per carattere, e la volta che quello, vantando Febo per padre, si dà delle arie con lui, il nipote di Inaco non lo sopporta. E tu credi, cretino, alle storie gli fa che ti conta tua madre e vai tronfio d'un padre inventato? Fetonte arrossisce, reprime la collera con la vergogna e riporta a sua madre Climene l'insinuazione di Epafo. Ma quello che ti fai quanto orgoglioso non ho aperto bocca. Detesto che qualcuno mi insulti così e io non sappia la dinastia. Tu dammi un indizio che io discendo dal cielo e che il cielo, mamma, mi spetta. Ci ho detto, stringe le braccia a quel collo di madre e la implora per la sua testa, per quella di Merope, per le nozze delle sorelle, di dargli prova certa del vero suo padre. Non si sa se turbata più dalla supplica di Fetonte o dalla rabbia per l'oltrando la luce del sole, ti giuro, dice, per questa stella che irradia fulgore e maestà, che c'è nato dal sole che stai guardando, dal sole che regola il mondo. Se dico bugie, si rifiuti lui stesso di farsi vedere da me, sia questo il mio ultimo giorno. Comunque, non farai troppa fatica a trovare la casa del padre, il punto dove lui sorge confina col nostro paese. Visto che ne hai tanta voglia, vacci e senti da lui. A sentire queste parole di sua madre, schizza Fetonte entusiasta, traversa a rotta di collo la sua Etiopia, l'India distesa sotto la vampa del sole, ed è già dove sonne sublimi si leva la reggia del sole, sfolgorante d'oro e di piropo che sembra fuoco. Lucido avorio veste di luce il frontone. Sprigionano sprazzi d'argento le porte a due ante e il lavoro supera i materiali. Vulcano, il gran fonditore, vi ha cesellato infatti l'oceano, il quale elo che incombe sull'orbe. Vedi azzurre divinità nelle acque, Tritone che suona, Proteo che cambia forma, Egeone che fra le braccia stritola colossali corpacci di capodogli. Doride e figlie, alcune le vedi che nuotano, altre che sedute su scogli si asciugan capelli blu, altre a cavallo di un pesce. Non hanno tutte una identica faccia, ma in quanto sorelle si somigliano assai. Sulla terra vedi città, vedi ninfe e tutti i numi dei campi. Al di sei costellazioni sull'anta sinistra, sei sulla destra. Appena arrivato lassù, arrancando in salita ed irrotto nella casa del padre contestato, il figlio di Climene si porta al paterno cospetto, ma senza avvicinarglisi troppo, più da vicino gli sarebbe l'eccesso di luce insopportabile. Avvolto in un mantello di porpora, Febo siede su un trono di sfolgoranti il giorno, il mese e l'anno, i secoli. Ornata di fiori c'è lei, la primavera, e c'è l'estate che nuda porta un serto di spighe, c'è l'autunno sudicio di uve pestate, e l'inverno c'è con i suoi capelli bianchi e spinosi di ghiaccio. Al centro, appena si accorge che il ragazzo è un po' frastornato da quello spettacolo insolito, il sole che tutto vede, «Che vieni a fare?» gli dice. «Perché ti sei spinto quassù, Fetonte, figlio di chi non si sogna di disconoscerti?» Lui risponde, «Luce, tu, con tu mi permetti di chiamarti così, e Climene non mi ha mentito per nascondermi una magagna. Dammi una prova certa che mi convinca ch'io sono davvero tuo figlio, e toglimi, padre mio, il rovello dal cuore». L'ha detto, il padre si sfila la corona di raggi accecanti che porta in testa, lo invita a venirgli vicino, lo abbraccia e dice: «Sei mio figlio. Sulla tua nascita, Climene ti ha detto la verità. Comunque, per distelo già concesso, lo giuro sulla palude su cui giuriamo noi dei, quantunque io non l'abbia mai vista». Non ha finito di dirlo che quello gli chiede il carro e il permesso di governare per un giorno i cavalli alati. Si pente di aver giurato e scossa la testa radiosa 3-4 volte da quello che dici, chezza, potessi assi rimangiarmela. Sarebbe l'unica cosa, figlio mio, che ti negherei. Ti capricci il più rischioso. Fetonte, mi stai chiedendo un regalo che travalica le tue forze, nonché la tua giovane età. Il tuo destino è da uomo, sovrumana la tua ambizione. Nella tua incoscienza pretendi qualcosa di non consentito nemmeno agli dèi. Chiunque può volere quello che vuole, ma eccetto me nessuno, neanche il re del vastissimo Olimpo, che con la destra terribile scaraventa terribili fulmini, ove ripido è il primo tratto, e all'alba, freschi che siano, i cavalli arrancano. Il tratto centrale è alto talmente che io stesso alle volte non posso guardare di sotto il mare e la terra senza che il cuore mi tremi come a un vigliacco. L'ultimo tratto strapiomba e vuole un polso di ferro, la stessa Teti che per accogliermi io mi ci schianti sopra. Aggiungi che il cielo, agitato da un'incessante vertigine, trascina, lo spingo contro, e il turbine che tutto travolge, soltanto me non travolge, che viaggio in senso opposto alle stelle. Metti, ti ho dato il carro, che fai? Fronteggi la ruota dei poli, evitando che l'asse celeste ti sbatta via. Magari immagini che lassù ci siano boschetti e città degli dèi e templi che traboccan di offerte. Ti di belve, per quanto tu tenga la rotta e non commetta un errore, dovrai pur sempre passare, fratario, dentro la bocca aperta del leone e l'enorme cerchio che fanno le chele orrende dello scorpione e orientate al contrario quelle del cancro. Aggiungi che i miei cavalli, spiritati dal fuoco che portano in petto e che sbuffano per la bocca e per le narici, guidarli non è uno scherzo. Quando si accendono dentro, le redini li spazientiscono, responsabile d'un regalo tanto funesto. Figlio mio, finché siamo in tempo, cambiale. Tu sei sangue del mio sangue, pretendi una prova inoppugnabile. Non te la do con questa ansia paterna. Guardami, guardami in faccia. E se tu potessi, credi, immergermi gli occhi nel cuore, ci scoveresti dentro tutte le angosce d'un padre. Guardati giro giro le ricchezze dell'universo e fra tutti i beni del cielo e della... ti sarà negato. Soltanto questo ti prego di non chiedermi. Al dunque... un castigo, un regalo, un castigo. E ora perché vuoi sedurmi abbracciandomi come un bambino? No, sta pur certo, avrai, l'ho giurato, sulle acque di Stige, qualsiasi cosa desideri. Ma tu desidera meglio. Fine dei buoni consigli. Quello niente, s'impunta, non sente ragioni e brucia dalla smania di prendersi il carro. Allora, dilazionato il dilazionabile, natogli da Vulcano. L'asse è d'oro, d'oro il timone, d'oro i cerchioni delle ruote, gemme e topazi disposti in bell'ordine sprizzano barbagli abbaglianti, specchiandosi nella luce del sole.